peace I find. Just an old sweet song. Io sto male. Siamo in diretta. Ciao. Io sono una persona, sono Peppa Pig. Peppa Pig. Buonasera. Buonasera. Io sono Peppa Pig, tu chi sei? Buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, benvenuti a questa terza puntata di Giotia nell'Etere. Qui con noi c'è, qui con me c'è Peppo Pig, il nostro regista boicottatore. Sì. Ma ci sentite? Ci sentite? Io sì. Tu ci senti, Peppone? Ma dalla regia ci arrivano notizie che ci sono zero ascoltatori. Che caspita succede? Ok. Sono falsi in bilancio. Allora, questa è una puntata slim fast. È partito. Perché sono sola a fare la puntata. E voi vi state chiedendo, ma perché Parina parla così? E che cazzo ne so, a me mi dice parlo così. Scusa, io che non sono nessuno, quindi... No, cioè non ci sono le ciote, non c'è Flavietta, Antoniella, Andrea, come caspita dobbiamo fare? Quindi vabbò, abbiamo deciso di fare una puntatina piccolina, carina. Ovviamente abbiamo in programma di farvi... Ecco, aspettate un attimo. Peppone, ma non dovevi fare il programma con me? Mi lasci da sola? Marina, che cazzo? Allora, mi sento un imbarazzo. No, Marina. Ma qui c'è qualcuno. Oh, guarda. Esatto. E buonasera. Ciao, Pina, signora Pina. Vabbè, Marina, tutto a posto? Tutto bene, ma sei stata a Napoli in queste vacanze? No, sono sempre stata a Napoli, Marina. E come cazzo ti ci trovi qua? Un attimo, interrompiamo le seguenti trasmissioni. Messaggio pubblicitario. Pizza sì stasera. Stasera si è deciso di pizza sì, Marina. Pizza sì? Pizza sì. No. Pizza no. No wow. Beh, che abbiamo in programma stasera, Peppo? Ci mangiamo una pizza. E poi? E poi... Fez. Allora, stasera è un compito un po' difficile per me fare la puntata con... Peppe, perché è il boicottatore di professione. Esatto, io cercherò di boicottare gli ascoltatori a quota zero stasera. Vediamo se ci riesco. Buono. Già non mi sento per niente imbarazzo. Ok, abbiamo 7 ascoltatori, che carini che siete. Uno sono io. La borsa mia è qua, Cicillo. Un ascoltatore Cicillo. Che ascolta il cattivo che è. Va bene, allora. Cosa abbiamo in programma questa puntata? Così parlo pochissimo. Cosa? Gli zingari. Gli zingari sono stati. Ok. Stasera a grande richiesta faremo lezioni di San Giovannese. Sganger, tu che dici? Certo, abbiamo il nuovo maestro qua. Dopo anni che ha convissuto con Leonardo, che purtroppo oggi non può essere qua con noi, ci illustrerà un sacco di parole nuove. E chi è? Sature. Margherita, ho preso una margherita. Sature. Il famoso Sature. Da San Giovanni. Bene. Io viene a salutare, può salutarci. Viene a salutarci. In lingua madre, ovviamente. Sì. In lingua naturale. Ciao a tutti, ragazzi. Da San Giovanni in Fiore. Traduci? E sono giorni ne primo. Bene, a tra poco, Salvature. Mandiamo una canzone. Quale canzone mandiamo, Marina? Secondo me la prima. Ok, andiamo. Ok. Domani ti farò vedere una cosa, ti porto in un posto molto bello, macello, tranquilla, vedrai solamente una scintilla, ti sveglierai quando ti si accoppa, che sei coppa, che fame, se ti guardo penso subito al salame. Se invece guardo la tua coda riccia, salsiccia, fa gola. Pensare che fra un po' sarai bracciola, finirai sulle uova molto in fretta, pancetta. Quanto ci piace a noi, buona e rotondetta, Peppa. Quanto ci piace a noi, buona e rotondetta, Peppa. Gente, di Peppa non si butta via niente. Sai quante cose con lei si possono fare? Vado a elencare: bistecca, ciccioli, capocollo, costoletta, spalla, lombo, e stavo per scordare il guanciale, prosciutto, zampone, cotechino, e faccio un rutto per chi non vuole usare la forchetta, orchetta. Bambino, c'è mamma, papà, picca il fratellino, con la tenera e simpatica famiglia riempi la griglia. Quanto ci piace a noi, buona e rotondetta, Peppa. Quanto faccia a noi buona e rotondetta Peppa. Buona, ti fa chi venire scelta, fame? Marina, questa canzone stasera l'ho scelta io, però Andrea, la Giota Andrea ce l'ha fatta conoscere. Sì. Ovviamente vi saluta tutte e tre le giotone, giotarelle. E tu che cosa dici? Non siamo giotarelle, Maria, oh, guarda, guarda chi c'è. Ciao. Nicola. Nicola. Nicola, come ti chiami di cognome? Nicola. O fidanzate a Mariuzza. Mariuzza, la mia popiglia. Beh, io direi di farvi... Partiamo con le notizie tratte da una storia vera. Sì, Peppo, la prima la vuoi dire tu? Eh sì, vincitore dei campionati mondiali di nascondino del 98 trovato mummificato dietro un armadio. E sei tu così, Marina? Erano cazzi. L'avete Luigi? No, ce n'ho uno da 10. No, io no, uno da 20. Peppo, tu giocavi a nascondino quando eri piccolo? Sì, però non ho mai vinto il mondiale. Anche questo trofeo nella... Meno male che non hai vinto il mondiale, sennò sti cazzi ti trovano mummificato. Dietro un armadio. Ma in questo armadio c'era uno scheletro? No. C'era una mummia. C'era una mummia. Quindi questa è la mummia nell'armadio, questo tipo. La mummia. Cosa? No, dico, c'è, dite stronzate, pure Ruaffica, tanto va bene così. Ma per favore, i passanti stasera non mi stanno aiutando. C'è Gino Cammino stasera che ci ascolta. Gino Cammino. E poi c'è un'altra notizia, che praticamente un uomo si finse morto per frodare il fisco, ma 45 anni dopo muore davvero. Peppo. Che froda un fisco e poi sa che è normale, dopo 45 anni si muore, è la regola. Mamma mia. E poi abbiamo un'altra notizia, Peppo, questa sicuramente ti sta più a cuore perché parla del calcio. Aspetta, eccola. Però Marina, devi leggere la notizia perché è lunga, io mi scoccio. No, se capite il perché, nei paesi del terzo mondo c'è sempre qualcuno che vince la maglia da calcio. E qual è il motivo? Aspetta. Nei paesi del terzo mondo c'è sempre qualcuno con una maglia da calcio perché c'è un'associazione Onlus che si chiama Dribbla la povertà Onlus, che praticamente da 21 anni dell'attività ha donato oltre 1 milione di maglie da calciatori a questi bambini del terzo mondo. E poi diventano calciatori questi? È perché loro danno queste magliette per un futuro migliore. Wow. E quindi poi qualcuno magari diventa calciatore e diventa un futuro migliore, quindi. Da notare che quando è stata detta la notizia, Peppo Nente ha scattato 5 euro alla faccia dei bambini del terzo mondo. Che schifo. Qualcuno direbbe... Ma stiamo all'Inghilterra. Cosa? All'Inghilterra. Sì, praticamente hanno chiesto a sti tipi di questa organizzazione umanitaria come cosa vi differenzia dalle altre organizzazioni umanitarie. E loro hanno risposto: la prima differenza fondamentale è che non chiediamo soldi, ma solo donazioni spontanee di indumenti sportivi. Noi preserviamo il terzo mondo come biodiversità perché siamo coscienti. Che cosa? La notizia dice così. Cicillo, tu sei biodiverso. Ci sono piante. Ma sei biodiverso tu? Cicci, ci sono biodiversità e biodiversità. Perché te la devi prendere sempre col diverso? Scusa, ma sei biodiverso veramente? Ma realmente c'è scritto biodiversità? Voi. Certo, Cicillo. Noi leggiamo solo notizie vere. Io li denunzio. Io li sporgo denunzio. Io denuncia. Assolutamente. E qual è? Qual era? Razzismo. Qual era? Quella. Quello forse dici tu. Chelo. Chelmona. Chelmona. Praticamente dicevamo che preserva... Dicevi. Dicevo. Io penso sempre alle giote. Allora, noi preserviamo il terzo mondo come una biodiversità perché siamo coscienti che se noi viviamo così bene è proprio grazie alla presenza e alla salvaguardia di, una, di un simile ambiente da custodire tutto. Noi non promettiamo di salvare l'Africa, ma aiutiamo le singole persone. Sarebbe comunque utopico pensare di aiutare un intero popolo quando in condominio di 6 persone è impossibile accordarsi per un'intonacatura. CC, ha giocato E poi ti lamenti. E poi metti le piante sul davanzale. La tua biodiversità ti piace, te bravo. Bravo, bravo. E bravo, Cicci. Che schifo. Schifo Ciccillo. Che schifo, persona Ciccillo. Stasera ce la prendiamo con Ciccillo, visto che sono in una sola io. Io volevo salutare tutti i patilini che in questo periodo dell'anno, specialmente in questo periodo dell'anno, stanno trascorrendo la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, quindi si stanno attrezzando, l'allerta meteo li stimola, Peppone, e quindi li voglio salutare e incoraggiarli di finire questo mese di gennaio e iniziare quello di febbraio, perché è più corto e comunque è un altro mese che passa. Purtroppo anche gennaio finisce, Giovanni. È una tragedia. È così, ma come dice Tarlo, show must go on. O meglio, Fezza must go on. Quindi poi dopo febbraio viene marzo, quindi non bisogna disperare. Alla fine si arriverà a marzo, aprile, maggio, giugno, luglio. No, quest'anno non c'è febbraio, non è bisestile quest'anno, Giovanni. No. C'è un mese in meno. Ah, yeah. Purtroppo... E quindi finirà gennaio e inizierà subito marzo. Ci sono i tagli pure nei mesi. Mm. I tagli, i famosissimi i metalli tagli. Ci sono nei mesi. I metalli, no. Un mese un metallo. Che schifo. Che schifo mese. E quindi. Giovanni è uno schifo persona. Però qui c'è il nostro passante Nicola che ci voleva parlare. Rodolfo. Rodolfo che ci voleva dare la notizia della suora. Che è successo con quella suora? E niente, sembra la solita scusa, c'è stato Spirito Santo, ma una volta dopo 2000 anni uno se ne accorge la cazzata, uno è facile, no? Se no ti arriva la figlia da casa, no papà, uno ha fatto niente di male, un signore entra la macchina giù parcheggio, no, è stato Spirito Santo. Cioè, e dai, e capiamolo queste pisciatura. Cose. Cacciamo questo celibato alle suore, fanno quello che vogliono, non lavoro come un altro. Stavo dicendo che sicuramente gliel'avranno affrancato, dico. E sicuramente. Tu che dici, Rodo? Secondo me sì. Quindi è stato il postino. No, più che il postino. Quello che lavora in posta. Franca e Pancupo. Secondo me è quello che porta il pane. Il pene. Il pene. Lui porti il pene. Pene fresco. Il pene vendolo. Sono penny friendly. Ma. Vabbè. Qui si dice a opera dello Spirito Santo paesano. Siete giote. Io voglio salutare tutti i petilini che in questo momento, mentre si fa la radio, loro si fanno i cazzi loro, e anche che se noi li salutiamo, loro se ne fottono. E nemmeno ci ascoltano. E nemmeno ci pesciatori. Esatto. Chiamiamoli, ecco, pesciatori. Sì. Possiamo calcolarlo, Cicillo. Ma stasera forse abbiamo un nuovo passante, il nostro passante col blues. Chi è? Dov'è? Perché? Cosa gli passi? C'è Lorenzo Blu. Chi blues? Buonasera. Ciao, cosa ci dici di Cioto? Hai una notizia ciota da divulgare nella webofonia, ciotia? Webofonia non lo so, però sto venendo qui dopo un bel po' di tempo e ho trovato delle fosse inimmaginabili. E buca! Sì, esatto, c'è una persona che ci è rimasta dentro. No, sono finti, Lorenzo. No, ci sono quelle 3D. Quelle 3D, cioè ho visto... 3D? 3D. Sì, ho visto una cosa tipo che le fanno... ci mettono gli adesivi. So, quella cosa della Finlandia. Ah, dalla Finlandia. Canada. È uguale, sono vicini. Sì, no. Sempre là, sempre freddo. Sempre freddo. Confina. Sempre freddo. Fa sempre freddo, lascia stare. Quando... Allora, cioè, esistono i posti freddi che sono tutti quelli là. Eh sì, come il mio amico Pasquale che faceva una cosa abbastanza, diceva una cosa abbastanza ciotta, questo penso che lo posso dire in radio, che categorizza le persone di tutto il mondo in quattro sottocategorie. Gli italiani, poi ci sono quelli neri che sono i Niver, poi ci sono quelli i cinesi che sono tutti quelli con gli occhi a mandorla, Niver. I cinesi che sono tutti quelli con gli occhi a mandorla, quindi pure che ne so, coreani e giapponesi, e poi tutto il resto delle persone sono polacchi. C'è cioè uno spagnolo per lui è un polacco. Polacche, Pallagorio pure c'è. No, no, davvero, non sto scherzando. Ma c'è pure Pallagorio. Però sono italiani. Comunque io stasera devo denunciare una cosa. Cioè, praticamente, voi dite sempre che... Oh, ho due microfoni. Voi dite sempre polacche, Pallagorio, co. Però ci pensate al fatto che le polacche possono essere carine, invece i ragazzi polacchi sanno di bambini, cioè non sono attraenti. Ma hanno le polacchine. Hanno le polacchine. No, perché non hanno la barba i polacchi, allora sembrano tutti quanti bambini. Invece Cicillo, che c'ha tanta barba, sembra proprio un ciuoto. Ma che c'entra Cicillo? Io stavo dicendo che ragazzi ma polacchi... Ma tu usi le polacchine, Marina? Le polacchine? No, no. Quest'anno... le piccole polacche. Le piccole polacche. Si usano le polacchine? E sono fidanzate con i polacchi. Sono piccole. Ma scusa, un polacco di 30 anni c'ha una polacchina. Poi non è un pedofilo. Sì. Un pedo polacco. È un polacchico. No, vabbè, ya, non faccio. Un pedolacco. Un pedolacco, un pedolacco. Un polofico. Un polofico. Avete qualche altro? Abbiamo anticipazioni dalla regia, mi sembra. Cosa? Non lo so. Ce l'abbiamo, no? Ah, questa è una bellissima canzone che dedico al mio ragazzo. Esatto, anch'io la vorrei dedicare al suo ragazzo. Perché è una schifo persona. Che schifo, direi io. Mandiamo il pezzo, Marina. Mua. Certe volte mi chiedo se sto sognando. Possibile che tu abbia scelto me come l'uomo della tua vita. Io, una persona quasi insignificante, vicino a te che sembri una stella, perché tu sei bella, tu sei fragile, sei un fiore, ecco, sei un fiore. Svegliati una buona volta e smettila di sognare. Sai cosa ti dico? Tu fai schifo sempre, la mattina alla sera fai schifo sempre, quando scendi per stare fai schifo sempre, quando leggi il giornale fai schifo sempre, fai schifo sempre. Così un fiore, un fiore profumato. La mia vita a scriverti poesie, a parlarti d'amore, come ricompensa mi basta un tuo sguardo, un tuo sorriso. La bocca più dolce, una civile. Delle frasi meravigliose. Io sto morendo d'amore per te e tu mi tratti così. Ma chi credi di essere? L'unica donna che c'è sulla terra credi di essere. Ma sai che ti dico? Tu fai schifo sempre, la mattina sì, tu fai schifo anche di notte. Un fiore, una rosa, ma sta cosa brutta, sta cosa curiosa. Ma è arrivato Sofia Loren, un fiore, ma quale fiore? Una ciliegia, ma che ciliegia? Non c'è manca una mera faccia. Lei si illudeva di essere un fiore e io poi veramente ti dicevo che era un fiore. Ma quale fiore? Quale rosa? Una rosa. Ma chi ti conosce? Chi ti sa? Vabbè a te, sta cosa brutta. Eccoci qui ritornati. Grande musica a Ci tiene l'etere, grande. Una grande presenza poi. Lorenzo il blues. L'essenza. L'essenza. Io li invito a Petilia Policastro, provincia di Crotone, a venire a portare il blues alle Pagliarelle, alla Sofoma, a Cammellino. Abbiamo bisogno di blues nelle nostre olive, nelle nostre castagne. Abbiamo bisogno del blues. Lorenzo, un appello ti faccio. Ti prego, vieni a Petilia a portare il blues. Grazie. Ciao, sono Stefano e sono di Via Bosco de Nicola. Stefanuzzo. Ma hai visto che canzone è Camomile? Sì, miseria. Proprio miseria. Hanno un certo livello. Ma e mancano oggi notizie, non ce ne sono oggi notizie. Notizie quando ne vuoi. Proprio ecco quando perché nei paesi del terzo mondo c'è sempre qualcuno. No, l'abbiamo letta prima. Beh, leggi questa. Brunetta sbaglia i conti al bar e lancia 97,50 € di mangio. Minchia. Non siete un cazzo? Okay. Sì, Brunetta. Ciao, Brunetta. Ciao. Ma dov'è? Ma tu lo vedi? Brunetta, c'era Brunetta prima venuta, ma non si vedeva. È passato. L'hanno zambato. Wow. Esatto. Poverino. Ma vogliamo fare qualche lezione di blues? Lezioni di blues. Come si fa il blues? No, mi state chiedendo una cosa troppo difficile, non si può spiegare. Cioè, Jimi Hendrix diceva: il blues è facile da suonare, ma è difficile da sentire. Proprio perché il blues è una musica. Ma è una cosa troppo seria. Infatti, sì. Ma che sta serietà? Allora, dammi sul microfono. Bandito dalla giatia. Avete sentito l'ultima? Dice: il governo ha preparato una tassa per pagare meno tasse. Che cosa, signora Pina? Stavo dicendo al collega qui: chi ne si cade in un blues allucinato? Poi cosa ci dici, Rodolfo? Che il governo ha stanziato finalmente i 20 miliardi che servono per costruire la casa del Grande Fratello. Oh. E vai, quest'anno ce lo rivediamo tutti quanti su Real Time. Real Time. Ma qualche amico sangiovannese si appresta qui a fare qualche lezione di sangiovannese? Guarda i miei occhietti. Yeah. E dai. Come l'ultima notizia volevo dare: la Lega finalmente ha finito Lega ha finito la raccolta fondi per far fare la chirurgia plastica alla Chienci dal chirurgo di Michael Jackson. Ma che ne devi sapere tu? Ma qui arrivano Salvatore e Vittor. Come si dice in San Giovanni? Vittor purtroppo è un nome che non in San Giovannese non rende bene, cioè. No, non si traduce in San Giovannese. E mo che dicevo? Cioè, solo la T potrebbe essere accentuata di più. E mo che dicevo? E mo che dicevo? Riceviamo qualcosa, Ricevo. C'è stata lo timpure. Timpure? La bella timpure. Mi è volato un capillo a dirti Madonna. E a quale volta l'ho trovata? La UT è bracciola. Cos'è una UT in San Giovannese? È un luogo tipico San Giovannese dove si beve il vino e dove si dovrebbe anche dovrebbe essere anche il luogo dove si fa il vino e dove poi si beve, proprio la tipica cantina. Però in quel modo non c'è più, però l'embria come stesso per forza si c'è da fare il vino, però non è l'embria come stesso e non può stare nasciato come proprio assai, siamo tutti in genu faccio brutto. C'è era solo una serata. C'è spacco la butte. E facciami da Marri. Grazie. Prego. Ma mi dispiace che non c'è Flavia che può fare la traduzione simultanea. Però abbiamo qualche altro membro della San Giovannesità qua. Yeah, diceci una cosa. Io potrei dire la parola della settimana in San Giovannese. In San Giovannese, però, parlare in San Giovanni. Parola della settimana San Giovannese è papanzonia. Che cos'è? È il termine utilizzato per definire la neve che si è trasformata ed è acquosa e si mischia alla terra facendo appunto la papanzonia. Fai lo spelling, però. Papanzonia. Lo spelling, mica le sillabe. Cos'è lo spelling? L'importante è l'anzu, perché è un suono che non c'è nella lingua taliana. Cosa? Nella lingua italiana. Come? Taliana. Italiana. Ma l'etimologia di questa parola da dove viene? Penso che è un riadattamento di zanchiglia. Zunku, perché è paparotta, che si mischiano e fa un papanzoni. Che palata. Hai capito tu il San Giovannese come avanti? Appunto ad indicare la neve della consistenza di una paparotta. Come si chiama? Papanzonia. Ripetilo con me. Papanzonia. Bravo, tutti gli ascoltatori. Papanzonia. Di nuovo. Ok, Mr. Smith. Grazie a Gandalf. Peppa, tu ti stai stando troppo zitto. Che ci dici? Vi dico che... In verità vi dico io. Non ve lo dico per finta. Che un deputato si fa rimborsare la lunga... La mia. Niente, non si fa rimborsare niente. Deputato si fa rimborsare l'allungamento del pene. Ma cosa più importante, che il Movimento 5 Stelle ha preso la notizia, ha deciso di controllare tutte le dimensioni del pene di tutti i parlamentari per rendere tutti uguali, tutti quanti di 20 centimetri, 23.000 euro a testa. Eh sì. Alcuni lo dovranno tagliare, Cicci, quindi. Solo i neri. Dici che la Chienge infatti sta piangendo, deve fare questa operazione. Comunque, dice... Vilipendio, che cazzo è il vilipendio? Alla... Andiamo. Vilispendio, 23.000 euro. Vilispandio e spendio. Facciamo la notizia di Ciccio. Cosa? Qual è la notizia? La notizia. E che cosa dice la notizia? È accusato di crimini contro l'umanità l'inventore della moda mimetica. Finalmente, era ora. Ha chiesto la vera notizia di un giocarcere dietro la chiave. Che gente, proprio che schifo. Schifo persona. Uno che inventa le mode, Marina. Tu le inventi le mode? Ma moda. Le puoi pure inventare, ma il mimetico fa cagare. Dai, come ti fai a mettere il mimetico? Tornano a restare appena te vi. Ti dovrebbero mandare in guerra, ti dovrebbero mandare. Come minimo, proprio. Come Mimmo? No, quel. Cosa? Come Mimmo chi? Oh, ma lo sapete che Giulio Golia è guarito dalle emorroide grazie al metodo Stamina? Io sì, lo sapevo, Ciccio. Però i giornali, i media non lo fanno passare questa notizia. Purtroppo, meno male che noi abbiamo fonti attendibili che... Fonti? Fonti? Cosa? Mamma, la signora Pina stasera è proprio... Hai detto fondi, non fondi. Abbiamo fondi. Comunque abbiamo con noi ammissibili. Qui, abbiamo con noi qui colui che ha risolto il problema dell'angolo, del triangolo a quattro, esatto, lati. Esatto, proprio lui. È di Cosenza, un ricercatore dell'Università della Calabria che con questi pochi fondi pubblici è riuscito a risolvere questo problema che da 300 anni affligge tutti i matematici. Vediamo cosa c'era il teorema anche. In pratica il mio amico Pitagora, un mio grande amico, insomma si era fatto un problema. Beh, posso dire una parola grossa. Poi si è detto i coglioni, ha fatto solo il teorema di Pitagora, no? Che è la somma dei quadrati costruiti. Ma se erano triangoli come fanno ad essere quadrati, scusa? Non lo so, la somma dei quadrati. E infatti poi è risolto che il triangolo ha quattro lati. Esatto. La somma dei quadrati, si gioca su tu questo gioco dei quadrati e facevi triangoli. Sì, perché... Perché stiamo qui? La cultura non si privatizza. Esatto. Tutto minuscolo, tutto staccato. Comunque, Marina, che vuol dire questa cosa qui? Metti una canzone, come una catapulta. Io metto una canzone, però questa qui c'ha un titolo che non si può pronunciare. L'ultima. La prima, già. Ma devi mettere l'ultima. Metti la prima. Ma l'ultima si può pronunciare. La prima, un sangiovanese la direbbe meglio. praticamente si Zunku. Chiama Zunku. Come? No. Ah, non è femminile, è Uzungu. Zunku o Zunna? Zunna. Papagnona. Papanzonia. Ecco la bistecca della salute, il segreto è carne di vegani. Oh, caspita. La carne di vegani dicono che faccia benissimo perché per tutta la vita non hanno assunto estrogeni e antibiotici, ma solo cibo buono e vegetale. Buonissimo. Marco, da sacrificare. Senza che sbatti i pugni sul tavolo. Che secondo? Un'altra notizia dal mondo animale, uomo animale, ha negato l'uomo che sussurrava il cavallo cibo. ha fatto la fine delle zoccole, come dice a Napoli. Peppo, devi mettere chicken stew. Come dite chicken stew a San Giovanni? Chicken stew. Noi chicken non lo sappiamo dire. Niente chicken. Mina, Peppo. Chicken stew. Ball games in the refrigerator, doors closed, lights are out, but it's getting hard! What is making pie? Pizza, pizza, pie! Every minute, every second, pie, pie, pie, pie, pie! What is funding pie? Pizza, pizza, pie! Every minute, every second, pie, pie, pie, pie, pie! Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives! Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives! Meat therapy, therapy, advertising causes meat therapy, therapy, advertising causes meat therapy, therapy, advertising causes therapy, therapy, advertising causes. What is spend the pie? Pizza, pizza, pie! Every minute, every second, bye, bye, bye, bye, bye! What is spend the pie? Pizza, pizza, pie! Every minute, every second, bye, bye, bye, bye, bye! Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives. Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives. Meat therapy, therapy, advertising causes meat therapy, therapy, advertising causes meat therapy, therapy, advertising causes therapy, therapy, advertising causes therapy, therapy, advertising causes therapy, therapy, advertising causes. Well, advertising's got you on the run. Meat therapy, therapy, advertising causes. Advertising's got you on the run. Meat therapy, therapy, advertising causes. Advertising's got you on the run. Advertising's got you on the run. Advertising's got you on the run. Advertising's got you on the run. Advertising's got you on the run. Well, advertising's got you on the run. What is for the pie? Pizza, pizza, pie! Every minute, every second, bye, bye, bye, bye, bye, bye! What is for the pie? Pizza, pizza, pie! Every minute, every second, bye, bye, bye, bye, bye! Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives! Pepperoni, angry peppers, mushrooms, olive chives! Meat therapy, therapy, advertising causes meat therapy, therapy, advertising causes meat therapy, therapy, advertising causes therapy, therapy, advertising causes me therapy, therapy, advertising causes me therapy, therapy, advertising causes me. Cosa? Peppone, Peppo. Se voi vi vedete le cose porno prima, quando mentre io... Oh, raga, c'ho un'ultima ora. È uscito il nuovo Nobel per la medicina. Lo hanno assegnato a un uomo di Petronà che ha ucciso la moglie nel sonno perché russava. Ma è stata a Stoccolma. Nuova cura contro il russo. Uccidila. Nel sonno però la devi uccidere. Comunque questa qui è una notizia più importante. Sul fronte scientifico una ricerca svela che a pelle fece una palla di petto di tacchino. Di pelle di tacchino. Di petto di tacchino. Di petto. No, era. Di petto. Fece una palla di petto di tacchino. Non come si... No, non era una palla di pelle di pollo, era una palla di, pelle, di petto di tacchino. Quindi può cambiare l'esito della storia questa notizia. E invece andiamo su Focus e vediamo che gli UFO sono apparsi nei capelli di Casaleggio. Ma Andrea Laciota ci suggerisce un'altra notizia, Ciccio Pù. La dovresti sapere tu questa. Ma questo lo so, perché infatti la mia alta media universitaria deriva proprio da questo. Cioè? Io scorreggio spesso, infatti chi scorreggia spesso è più intelligente. Questa è una notizia fantastica. Perché i fumi del pirito che risalgono nel naso attivano dei... delle cose neuroreggettori, sì, ti fanno imparare meglio. Le anche perché studi proprio più veloce, perché te ne vuoi andare dalla stanza, c'è troppa puzza, non riesci a respirare. Però ci devi stare. Non riesco a respirare per poi lasciarlo andare. I gemboi levano baffo. La barba gli fa i gemboi, cioè proprio, no? Il baffo. Il baffo glielo può fare Cicillo. I baffi. Ma Buffy, quella che faceva i vampiri. No, Buffy ha cuginerino Buffy. Ma Cici, lo sapevi che un teologo scopre che i dinosauri erano in realtà cattolici? Sì, sì. Sei uno scops, quindi. Sì, se no bestemmiavano a Dio Dino. Dino. Oddino, bestemmia. Sì. Raga, sto vedendo il sito dell'Anza, una notizia fenomenale. Come una catapulta. Il fisco froda gli italiani. Il fisco froda gli italiani, gli è arrivata una cartella che sottolinea l'Equitalia. Al fisco, sì. Sì, sì. Ma è il signor Fischio? Fischia? Oh, e Dawson Creek è riuscito a morire vergine. No, poveri. Tutto da solo. Il pedone è stato ritrovato, un pedone in via del Pesce Spada numero 15. Oh, raga, c'era, era un pedone nero. Di no, era negro. È stato perso un pedone. Ma il pedone. C'è una ricerca. C'è il piede grande. Va a piedi il pedone. Ma ce l'ha grande il piede? Per forza, eone. Se no si chiama pedino. Ma dopo il pedone viene il ped tu. Il ped tu. Ah, il ped 3, poi c'è il ped 4. Voglio il peppone proprio avanti. E dopo il peppone c'è il pep 2. Il pep 2. Come avete visto, questa puntata Peppone non ci sta boicottando, ci sta un pochino aiutando. Io mando bravo avanti Peppone, la barra. Bravo Peppone. Dici Peppone che se non c'è ti dalle Se non facevo le barracche, io voglio vedere dove stavi tu stanotte. Giote! Se non c'erano le giote. C'è una notizia sull'osservatore romano. Importantissimo. Tarlo? Svelato il l'osservatore. L'osservatore romano è Tarlo. Ragazzi. Era romano romano. Come il pilota. È stato aperto il quarto mistero di Fatima. La monachella scrisse: il mogio non pulisce un cazzo. È vero. È bon. Il mogio. Il Mogio è il cugino del Magio, il nipote di Maccio Capatonda. Magio e Mogio Capatonda, è famosissimo. Maccio Capatonda. Che cosa? Il Mocio. Il Mocio. Il Mocio. Il Mocio. Ma signora Pina, tu che? Tu pulisci col Mozzarum. Mocio? Mozzarum. Okay. Quali Mocio? Marina, io pulisco con straccia. Straccia e mazzarella. E mazzarella. Dove? E poi dove la riponi la mazzarella? È una... è una, occhio, uno è una casaccia. È una locuzione verbiale. Ma di che cosa stiamo parlando? Mai è un articolo indeterminativo di grado femminile che determina esatto, è indeterminato, che determina l'indeterminabilizzazione, vorrei dire la prestigibilizzazione nel cammino la... Allora, domani in esclusiva live chat con Dio Lista Monti, invitate. Come? Le vostre domande. Inviate, non invitate. Sì, è sulla pagina Facebook di Ciotia dall'Etere. Potete comunque rivolgere le vostre domande lì, che Ciotia dall'Etere le farà pervenire a Dio. Ecco, come sottotitolato alla pagina 777 di Televideo e in digitale terrestre in diffusione in filo streaming. Giannino e Ratzinger sono la stessa persona. Cosa? Giannino e Ratzinger sono la stessa persona. Chi è Giannino, papà? Ma Gianni, allora aspetta, Giannino, no. Mettiamo Giannino, è una persona seria che meritava di entrare nel Parlamento italiano, perché ci sono tutti nel Parlamento italiano, poverino, solo Giannino non ci doveva essere. Poverino, è togo, c'ha quel taglio di capelli carinissimo. C'ha meno capelli di me, che cazzo. Uno che c'ha meno capelli di me nel Parlamento ci deve stare. Però gli potevano dare i cappelli. Ma soprattutto, ragazzi, sono proprio quei colori che non si usano più. Lui va e se li compra. Non spende soldi per vestirsi, non spende soldi di noi italiani. Bravo, piccolo Gianni. Prendiamo esempio. Il piccolo Giovanni è bravo. Comunque, una ricerca di El Paso, dell'università di El Paso, dice che scrivere con le K rende più intelligenti. Dove non ci sono università. Scrivere con la cacca rende più intelligente. Con la cappa rende quella più della cucina. Sì, sì, quella aspirata. Pizza no! E come no! Con una cappa. No! No! Cosa qui abbiamo un tifoso del Pizzo. È arrivata la signora in giallo, io mi tocco. È arrivata la signora in giallo. Ma che ne dite di finirla qui? Metti un po' di musica. Il prossimo pezzo, qual è il prossimo pezzo? Ce ne abbiamo solo uno, prossimo pezzo. Ce l'abbiamo solo noi. Il prossimo pezzo ce l'abbiamo solo noi. La pizza. Mettilo, Peppone. Metti questo pezzo. Questo pizzo metto. Questo pezzo pazzo. Pizzo pazzo pezzo. Pizzo pezzo. Ha fatto un errore. Carenza pizza di basso. È finita. Le pizze sbagliate, Marina. Le pizze no. Pizze sbagliate. Hanno sbagliato no. Quattro pizze, dai. No, pizze no. E che stiamo all'errore. E così, pisciatori. Pisci è un bello frappè, proprio. Sì. Ma possiamo dire. Sì. Non c'è rispetto per la gente che mette il volume in ripetizione. Io non capisco un cazzo quando parlo. Capire un cazzo. Chiudi quella porta, va là. Con il riverbero. Cosa? Salutiamo quelle là. Sì, salutiamo le ciote. Le ciote. Shari. Quella di Shari, la piccola Shari. Cosa? Quella di Shari ogni Crazy Diamond. Quella di Sharing. Sharing. Quella del film. Del film, di Sharing. Shari. Ti sciali. Shari, no, ti salutiamo. Tutti sciali, Shari. Noi ne scialamo, tutti sciali. Si sciali, si sciala. Noi che facciamo? Noi ne scialamo. Ne scialamo. O ne scialamo. Cosa? Sciaramo. Sciarare che vuole... Perché sciari. Sciariamo le software. Sciariamo le software. Noi condividiamo. Share the software. Arucolo, share the software. Esatto. Onest. Ok, allora salutiamo Shari che si è occupata della nostra Flavia. Cosa, volevo parlare con Flavia. Che cosa volevi dire? È stamattina che dice radio. E poi pisciatura non c'è. Schifo persona. Che schifo. No, poverina è malata. È malata, pure io sono malato, che c'è? C'ha un nome, Peppe, si chiama? Vedi? Piede di gallo in italiano. In italiano non vuol dire niente. Piede di gallo ci sono le parti. Ha fatto un po' di gallo. E dai, calate il pacco. Ma perché dovete parlare male delle altre cose? Ma mi commuovo. Come? Non ci sta sentendo, Flavia. Possiamo parlare male di lei. Come? Il microfono è aperto. Davvero è aperto il microfono. Io voglio più la mocca, niata. Che brava persona, Flavia. Un saluto. Ciao, Flavia. Ciao, Flavia. Un carissimo saluto anche da parte mia. Esatto. Ci manchi, Flavia. Ci manchi. Peppone Cicillo, pisciatori, perché non dovete parlare male delle ciote. Noi non parliamo male. No, sappiamo parlare bene. Non dovete bene. Caniare le ciote. Cosa? Diversamente bene. Sì, diversamente cretino. Ma salutiamo il nostro amico, quello lì il con la maglia verde, che non possiamo rivelare il nome. È il personaggio misterioso che dovete indovinare chi è stasera. Chi è? È venuto apposta... Per i pisciatori è venuta apposta. Sì, secondo me si è trovato qui per sbaglio e dice che è venuta apposta. Sì, figurati se ci caga. Ma infatti, va. Se ne frega. Si sta mangiando la sua bella pizza. Sì. Che a lui gliel'hanno portata giusta. Giusto. E agli altri poverini. Alle persone che non mangiano carne gli portano le pizze sbagliate. Con questo la qua salsiccia. Si chiama boicottaggio. Come fa Peppe pure, sì, anche io. Anche a Peppe, sì. Jolly pizza no. Io non mangio carne, pure io, ecco. Lo sapranno tutti i nostri ascoltatrici. Peppone vegetariano. Ascolta mucche ascoltatori, Ma che volevo dirvi? Da questa settimana. Ecco, sì, avviamo il sondaggini. Chi è il nostro personaggio misterioso? Gesù. Colui che ha ingravidato la monaca? O Tarlo? Oppure... gli zingiri. C'è anche il pacco X. Pacco X. Beh, votate sulla nostra pagina Facebook. Il peppone. Sulla S pagina. Ma non vede che mi sto leccando le mani. No, dico, stamattina sono andato, dovevo fare benzina con la macchina e mi sono nelle beccacce. Come si dice? Mi sono imbattuto. Come il battuto, quello che mettono il battuto vanno per il fare battuto il di carne. No, quando fanno il pavimento prima fanno il battuto. Ah, il massetto. Battuto. Dico, ho trovato un distributore di pronomi in giro. Ah sì? Distribuivano pronomi, si chiama Esso. Sei un grande. Me li sono presi un po' di pronomi. E quindi adesso li buttiamo. Ma quanto vanno al chilo? No, vanno al litro. Ah sì? E quanto vanno? Non lo so, non mi ricordo. Boh, ero ubriaco stamattina. Quindi mandiamo il prossimo pezzo, che è di un artista contemporaneo e conterraneo di Tarlo. Cioè? È il maestro supremo. Il maestro dalla terra di Pitagora. La terra viene... di mezzo. Dalla terra me... Ma la terra di mezzo, lo sai che è la è terra a metallo. Metallo. Esatto, esatto. Mandiamo questo pezzo che è un capolavoro della musica italiana. Diciamo che è conosciuto in tutto il mondo. The Wall è una cagata in confronto. Sì, sì, sì, The Wall. Capisci? Non è della musica italiana. Esatto, cioè, che c'entri? Ci sembra lì a puntualizzare. Qua dietro c'è gente che si era scandalizzata. Stavo cercando semplicemente. Allora, tu non conosci i dialetti, è scritto in dialetto. No, non hanno lo spirito del della giatina. Tu conosci solo quelli del sud. Quindi sei un imbecille, dai. Un imbecille nel senso tu imbelle, imbelle, imbelle, imbelle, imbelle, imbecille, impellicille, impellet. Va bene. Vai, vai, manda questa canzone. Questo pezzo. Cicci, l'aspetta, è una persona impellet perché riscalda. E fino un briacone sapeva tutte le cantine a dove arriva si ferma e siete un quarto vino. Un quarto c'è un quarto dopo fa mensolito poi come bello vino dinta sta bottiglia vino dinta sta bottiglia vino. Con un vino un bello morzeggio quattro live e un pipiceggio poi c'è una sarda con un panino viva viva compare Peppino. Non ti piace proprio niente vino, viva, viva compare Peppino, viva, viva compare Peppino, un briacone, sapete tutti le cantine, a dove arriva si ferma e siete un quarto vino. Un quarto c'è un quarto, dopo fa mensolito, poi come bello vino, dinta sta bottiglia vino, dinta sta bottiglia vino. Era pupilla rumina, mamma mia ci fa certi stili, che si ricoglie a casa ambriaco e va trovando un pisci in un cago. Dove vai e ti piglia? Marito mio, marito umbriaco, stupisce, stucaco, stucaco e stupisce, ma quando avresci. Peppino umbriacone, sape tutto le cantine, a due arriva si ferma e siete un quarto vino. Un quarto c'è un quarto, dopo fa mensolito, poi come bello vino, dinta sta bottiglia vino, dinta sta bottiglia vino. Se ci date vino e gazzosa, il giù risponde che roba schifosa, preferisco il vino naturale, l'unica cosa che non fa male. Alzo quindi il bicchiere del vino, brinde se faccia compare Peppino. Se ci date un bicchiere whisky, il giù risponde un muove questa fresco. Se ci date un po' di cognacca, caccio corteggio catena in ta sacca, poi guardi in ta faccia, vi sputa in ta noccia, ma date che sbaglia colpisce in nariccia. Se ci date un bicchiere gin, ti dite che voglio un bicchiere vino, che sogni Peppino, un briacone, sape tutte le cantine, a dove arriva si ferma e siete un quarto vino. Un quarto c'è un quarto, dopo fa mensolito, poi come bello vino, linda sta bottiglia vino, linda sta bottiglia vino, linda sta bottiglia vino. Capolavoro della musica internazionale. Internazionabile. Esatto. State tutti mangiando? Tutti mangiano tranne me. Tutti pisciatori tutti quanti. Cosa Cicci? Io ho già mangiato Marina. L'ho già mangiato. Come? Già mangiata Marina, già mangiata pizza, capito? Devo ingoiare un attimo. Ho capito, però io questa già dicevo, scusami. Comunque davvero ogni giorno di più. Tutti i giorni. Ieri. Domani. Ieri, oggi e domani. Esatto. E allora procediamo con la fine della puntata. Sì, sì. Aspetta, aspetta, c'è qualcuno che mugugna. Con la gente, tra la gente e per la gente. Tutti i giorni. Sì, stavi dicendo Peppe? Non lo so. Dobbiamo procedere con la fine della puntata perché questa doveva essere una puntata slim, invece siamo oggi no. Abbiamo fatto una puntata XL. Big. XXL. XL. Qua c'era io... una cosa interessante notizia. Vediamo se esatto, la devi ricercare che l'ha persa. C'era una notizia fenomenale. Ci vuole un'anticipazione? No. Perché? Le anticipazioni che stiamo qui ai bookmakers. All'exit poll. All'exit poll. Mi sono mirato il microfono nel letto. Allora, Marina. Dica. Il microfono. Niente. Si tiene a metà io. No, si microfona. Che vuol dire? Non lo so, che non deve significare niente, che deve significare. Ciccio Pupo lo vedo molto dispiaciuto per la fine di questo programma. Peccato. Allora, mi sembra. Peccato. Andiamo con la prossima notizia. Perché oggi funziona l'internet? Perché manca una pesciatura, forse. Cioè? Non lo so. No, c'è. Com'è che oggi non c'è Back is back. Perché oggi ci sono io. Perché la connessione va di più. Tira, va di moda oggi la connessione. Back is back. Lascia stare tu. Succedono cose strane. Succede l'irreparabile. Ma secondo te esiste un importante riparatore di riparabili? Devi andare a prendere i pezzi dalla giusta tu. Bob la giusta tu. Manny è la cugina di Bob. Però in realtà è come Dora l'esploratrice. Ma c'è quell'altro, il cugino. Abbiamo la notizia di prima che delle tracce audio. Ciccio Pupo l'ha trovata. Sembra nome e cognome. Esatto, nome e cognome. La sapete dove abita questo ragazzo? Mai. Abita in via dei cosi. Non faccio niente, non faccio. A me taglio. Io volevo dare una ricetta della tradizione culinaria proprio tosta. Raga, è una ricetta da bagno. Preparatevi. Preparazione 2 ore e mezza. Tieniti il microfono. Difficoltà 25 Stella. Su 25. Allora, per la preparazione ci serve un uovo, olio di qualsiasi tipo, anche preparato per friggere. Sì, qualsiasi cosa. Pure roba per una cosa che non si chiama olio, perché nei supermercati c'è delle cose che non si chiamano olio, si chiamano preparati per friggere. E una padella può essere. Più teflon è staccato, più buona è. Ed è questa importante ricetta che si fa soltanto a Capodanno perché è troppo complicata da fare. Spacchi l'uovo, lo metti al centro, ci butti col cucchiaio un po' di olio sopra e te lo mangi. Buono. E il teflon va a quelle cose nere che sembra pepe nero, che tu poi chiedi: ma è pepe nero? Sì, tranquillo. Che notizia fenomenale. Questa è l'angolo cucina. Dopo che avete finito la padella, non la dovete lavare. Se no, grattatela con una spada. La grattate un po' con una spatola e vi conservate il teflon nel coso del pepe nero per quando fate la pasta cacio e pepe, magari che non usate il Ma la facciamo una pasta teflon e pepe. Ma le pizze in ritorno. Le pizze, sono arrivate le pizze, quelle là per i vegani. Dai vegani, mangiate vegan che poi vi mangiamo. Un po' di rispetto per chi è diverso. Ma scusa, tu no, le galline quando le fai crescere, non le fai crescere con la roba. Salvate una mucca, mangiate un vegano. Comunque, io direi che potremmo mandare una canzone del Sol. Come? Una canzone d'amore. Io direi che farmi ricordare una canzone d'amore. Solo per addormentare, che parli solo d'amore, perché non voglio amare. Una canzone d'amore solo per me, solo per me. Applausi. Dedicata al teflon questa canzone. Allora, mo mandiamo un pezzo, sempre del maestro. E poi, questo capolavoro è dedicato alle nostre pizze che avevano una cosa particolare di sopra. Che non era il teflon, ma era... Usa Zizzo. Sappigliati lo sazizzo, chilo che era impennuto alla finestra, un'eca sappigliati lo sazizzo, se mi capita in ti mani ti l'ammazzo, un sazizza così bello, cala viva solo io, un Usa zizza così bello che la viva solo io. Usa zizza così bello che la viva solo io. Usa zizza così bello che la viva solo io. Forse se l'ha pigliati puzzo me cozzo. Chi luca te na rapanza pozze pozze. Ed è patone di cento palazze. Mi cuzzo s'affricati, usa zizza così bello, che la viva solo io. Usa zizza così bello, che la viva solo io. Usa zizza così bello, che la viva solo io. Usa zizza così bello, che la viva solo io. Forse mi sbaglio ed è stato torozzo. Chi ruga te na ravucca che ci puzza. E scubature e coglia le monnezze. Mi cuzzo s'affricate, lo sa zizzo. Facemo a mi sposare, che ci dugni a rosineggia per mangiare. Idda si è tassuba o matarazzo, e non batto panneate, usa zizzo, usa zizza così bello, che la viva solo io. Usa zizza così bello, che la viva solo io. Usa zizza così bello, che la viva solo io. Usa zizza così bello, che la viva solo io. Che la viva solo io. Il maestro Riganello. Riganello, dici il nome di questo album? Questo... no. No, ha sbagliato di nuovo le salsicce. Hanno sbagliato di nuovo? Le pizze. No. Mamma che pisciatore, hanno sbagliato di nuovo le pizze. Di nuovo, e di nuovo hanno fatto le pizze con la salsiccia. È incredibile. Poveri vegani, non avete capito niente. Ma portate ste pizze. Vogliono le pizze? Vogliono le pizze indietro. No, sbagliano le pizze. Vogliono le pizze indietro. In pratica, mamma, hanno sbagliato le pizze. Le hanno rifatte. Per un... le hanno riportate. E adesso vogliono le pizze. Le hanno sbagliate di nuovo. Pizzo no. Cioè, le hanno sbagliate di nuovo. No, le vogliono il resto. Vogliono il resto. Vogliono i soldi. Il riciclo delle pizze. Cosa? Che cosa? Il riciclo. Vabbè, comunque. Mamma mia, ma. E in questa, in questo clima di incredulità c'è Ciccillo che c'ha una faccia proprio sconvolta. In questo pizzo clima no. Di pizzo no. Cosa? Mi chiedevo, no, se si può essere pur di fame fino a questo punto. No, io in questo momento sono morto di fame, che perché non so fame, pisciato. Non ho mangiato. Comunque salutiamo tutti gli ascoltatori, le ciotte, tu ti saluti, tu ti intrometti nel nostro format. E io saluto, non posso salutare? Sì. Non saluto più, vabbè. No, no, saluta, scusa, sono stata cattiva. Faccio sciopero del saluto. Sciopero della fame, Peppo, perché ti mangia pizza. E fai il vegetariano, tu, vedi che scusa, eri tu così? No, io non c'ero. Ok, è arrivata la mia bella pizza con il pesto bella e le patate. Pesto e patate. Ok, allora è il momento di salutare tutti quanti, perché... Mi saluto lì, io non li saluto. No, Peppo, ma qualcuno lo saluti pure tu. Vabbè, io saluto il primo che mi viene qua davanti. E ti saluto. E ti di Paola. E ti di Paola saluto, il mio amico. Allora, salutiamo tutti quanti. Allora, le ciote innanzitutto. Io non le saluto. Perché? Perché tu hai detto che non posso salutare. Vabbè, le ciote le saluto io perché sono ciota come noi e le capisco. Allora, salutiamo Antonietta. Salutiamo la piccola Andrea e Flaviottide.